Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 24 gennaio 2015, anno europeo contro lo spreco di cibo. Italiani ora più attenti. Abbiamo imparato a leggere le etichette con più attenzione. Cominciamo a comprare i prodotti freschi a piccole dosi, puntando sulla qualità. In generale, abbiamo ridotto gli sprechi di cibo, anche se molto resta da fare. Chiuso l'anno europeo contro lo spreco di cibo 2014, Last Minute Market, lo spin-off dell'Università di Bologna, che si è fatto promotore di questa iniziativa adottata 3 anni fa dal Parlamento europeo, traccia un bilancio positivo. Le prime indicazioni di un'indagine su questo tema dicono infatti che le percentuali di sprechi alimentari sono in calo. Fin qui la notizia del 24 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. I dati elaborati dal Last Minute Market indicano che a livello domestico in Italia si sprecano mediamente il 17% di frutta e verdura, il 15% di pesce, il 28% di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e ben il 32% di latticini, con una perdita a famiglia di circa 1.700 euro l'anno. La decisione di promuovere un anno europeo contro lo spreco di cibo per il 2014 parte dal lavoro dell'organizzazione guidata da Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna e presidente di Last Minute Market. Ci sono tanti benefici che si possono ottenere perché le misure per ridurre lo spreco alimentare vanno dal campo alla tavola. Per esempio, noi consumatori, quando andiamo a comprare dei prodotti, troviamo delle etichette che ci distraggono un po', e per esempio il consumare preferibilmente entro il prodotto secco, quella è un'etichetta che ti porta a sprecare, perché molti consumatori non sanno che se anche vai oltre quella data non succede nulla. Questo significa anche, per esempio, un diverso comportamento di noi consumatori sul fresco: ne compriamo troppo e quindi poi lo sprechiamo. Allora il fresco, il freschissimo, va comperato a piccole dosi, programmando forse un po' meglio la spesa, anche quando non si ha tempo di fare la spesa ogni giorno, perché chi lavora poi magari può andare soltanto una volta alla settimana. Dobbiamo comprare forse un po' di meno e valorizzare la qualità del prodotto alimentare. Siamo in crisi e forse questo è anche un atto, diciamo, più responsabile. Ecco, l'azione che abbiamo messo in campo dovrà andare su 27 paesi e contenere delle misure concrete che poi ci portino a fare un po' meglio tutti, perché spreco significa inquinamento, significa rifiuti che ci stanno pian pianino sommergendo. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.